visto la gente della mia età andare via. Lungo le strade che non portano mai niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già. Lungo le notti che dal vino son bagnate, dentro alle stanze da pastiglie trasformate, dentro alle nuvole di fumo nel mondo fatto di città, essere contro di ingoiare la nostra stanca civiltà. Dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che fa città. Le pedipatte di abitudine e paura, una politica che solo fa carriera, il pervenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione ma è contorto. È Dio che è morto, nei campi di sterminio, Dio è morto. Un mondo nuovo, una speranza appena nata, ad un futuro che è già in mano, a una rivolta senza armi, perché noi tutti.